siamo i giovani, i giovani, più giovani. Siamo l'esercito, l'esercito del surf. Noi siamo giovani, i giovani, più giovani. Siamo l'esercito, l'esercito del surf. Ma che cosa c'è? Ma che cosa c'è? Vai insieme a me. Vai insieme a me. E vedrai che poi. E vedrai che poi. Ti passerà. Mi vuoi dir perché? Mi vuoi dir perché? Non sorridi più. Non sorridi più. Balla insieme a me. Balla insieme a me. Poi ti passerà. Buongiorno da Anna Damolo e Anna Damolo. Allora, quest'oggi parleremo dei nostri progetti di autoformazione e per parlare di questi progetti di autoformazione però partiremo dalla nostra condizione di studenti. Come e non... precari anche. E precari, come non ci siamo mai stancati di dire, le vittime principali di questa controriforma dell'università che viene dalla Gelmini ma che viene anche a livello europeo dal processo di Bologna, come dicevamo nella decima puntata, sono stati gli studenti e i precari, sotto forma di aumenti delle tasse, di diminuzione delle borse di dottorato, di diminuzione dei servizi, di carenza dell'offerta formativa. Sì, in effetti i problemi che possiamo riscontrare giornalmente sono molteplici, ad esempio la frammentazione dei tempi, la frammentazione dei corsi e anche dei saperi e diciamo la voracità con cui vengono mangiati i nostri spazi di autonomia. Infatti la nostra condizione di studenti continuamente divisi tra le lezioni e continuamente assorbiti da questa divisione capillare della nostra vita studentesca ha praticamente assorbito ogni nostra forza di autonomizzarci e quindi di organizzarci in modo indipendente. Sì, infatti siamo stati proprio espulsi sia a livello di tempi, perché il continuo alternarsi di lezione impedisce lo studio, l'approfondimento, ma anche la socialità, l'incontro, la condivisione. E c'è stato comunque anche un restringersi dei tempi, infatti anche per incontrarsi nei luoghi universitari è diventato un'impresa. Esatto, infatti potremmo dire che le strutture universitarie sono, possiamo dire, una specie di non luoghi, dove, cioè dei luoghi di passaggio in cui si espletano le funzioni possiamo dire vitali, cioè andiamo a lezione, esatto. Mangiamo qualcosa, beviamo un caffè, ce ne andiamo e non parliamo mai tra di noi. Il sapere è diventato nozione, quindi non c'è mai una discussione, esatto. Una messa in comune appunto del sapere. E dunque, cioè, alla fine lo studente è ridotto semplicemente a uno che segue dei corsi, esatto, non è più, esatto, l'università è appunto una fabbrica, non è più una persona forte di esigenze, di bisogni e di saperi anche critici. Sì, in effetti sono molti, come abbiamo detto, i problemi che ci circondano, possiamo dire, all'interno dell'università. Uno fra tutti, l'impossibilità di intraprendere un percorso di conoscenza, possiamo dire, libero da vincoli esterni, quindi, come abbiamo detto prima, autonomo, al riparo da obblighi temporali. Quali potrebbero essere questi vincoli di cui parli? Come abbiamo detto prima, ci sono i vincoli temporali, cioè strutturazione di corsi che tendono a riempire tutto l'arco della nostra giornata, poi ci sono obblighi a livello di curriculum, per esempio, cioè i curriculum sono strutturati in modo molto rigido, in maniera da non permettere allo studente una strutturazione della conoscenza più autonoma. Infatti, quindi... come vent'anni fa che si potevano costruire il loro percorso di studi, che dunque era anche specchio della loro volontà di crescita culturale e personale, esatto. È ora utopico, e anzi, sì. Siamo, diciamo, proprio imboccati, siamo trattati come dei bambini di 2 anni, ci dicono fate questi corsi. Sì, diciamo che l'università è diventato un prolungamento del periodo liceale. Però io non sono sicuro di questo, perché al liceo comunque c'è un certo approfondimento, nel senso i temi sono trattati con lentezza, lo studio dei diversi percorsi e delle diverse materie si svolge sull'arco dei 5 anni, dei 3 anni e dei 2 anni, perciò il liceo è una cosa approfondita. Secondo me l'università di oggi rischia di essere anche peggiore del liceo. Sì, non so anche se peggiore, sei... però avevo paragonato al liceo in quanto diciamo il fatto di seguire sempre il libro, cioè di basare una didattica sull'ossessività del libro, di seguire la rigidità delle pagine, esatto, delle pagine, questo è molto simile a un percorso liceale, appunto poco autonomo dal punto di vista intellettuale. Poi un altro elemento che probabilmente è, cioè, evidente soprattutto in una città come Perugia, che vive di università e di grandi eventi, che possono andare dall'Umbria Jazz al Festival Internazionale di Giornalismo fino all'Euro Chocolate, è l'importanza dello studente come forza lavoro. Ora, forza lavoro non è che intendiamo che lo studente viene messo in fabbrica, ma intendiamo che tutta la vita dello studente viene fatta produrre, cioè possiamo portare molti esempi, dal fatto che la produzione, per esempio nelle facoltà scientifiche, la produzione degli studenti viene intitolata o a un docente o all'università, oppure gli scavi che fanno archeologia, antropologia non sono retribuiti, perciò è forza lavoro offerta gratuitamente. E poi soprattutto i risultati di questo lavoro non vanno a nome degli studenti ma vanno a nome dei docenti. Questa è un'espropriazione sia dal punto di vista economico che del riconoscimento individuale, esatto, del proprio lavoro. Il problema, potremmo dire, forse il problema più grave di questa situazione è, diciamo, la normalizzazione di tali processi. In effetti, cioè, se entriamo nelle facoltà, nel concreto, ci accorgiamo che gli studenti non percepiscono il tirocinio o gli stage, oppure lo stesso festival del giornalismo. Il volontariato non è percepito come un diciamo una prestazione di lavoro gratuita, ma è percepita come un'opportunità, perché comunque ci hanno insegnato che quella è un'opportunità. E ci hanno insegnato soprattutto che questo posto di lavoro tu lo, cioè, non percepirai alcuna retribuzione per questo lavoro, però questo è funzionale alla presa del posto di lavoro, che non avverrà mai, dato che i posti di lavoro quasi non esistono e, se esistono, raramente sono retribuiti. Poi comunque lo studente e il complesso degli studenti portano indubbiamente una grande ricchezza di tipo culturale e sociale, appunto nel tessuto urbano. Lo studente è anche spesso consumatore e affittuario, e questo è anche uno dei grandi temi che caratterizza Perugia, dove lo sfruttamento degli studenti proprio per fini affittuari è ingente e è un problema di cui non sembra interessare a molti. Esatto, dunque diciamo, tiriamo un poi questa cosa di tirocini e degli stage è grave, appunto perché legalizzata, nel senso, questo fatto che sia stata addirittura fatta una legge per ratificare che tu lavori e lo stipendio che ti sarebbe dovuto ti è invece storto, è abbastanza grave. Diversa è la storia del Festival Internazionale del Giornalismo, dove addirittura mettendo delle paillette e indorando, insomma, la pillola, ti dicono: guarda com'è bello fare il volontario nel luccicante mondo del giornalismo. Poi tu lavori, e tu non ottieni una lira e questi guadagnano. Esatto. Diciamo, tirando un attimo le somme di quello che abbiamo detto fino adesso, qual è il problema che ci preme sottolineare? Il problema che ci preme sottolineare è, come abbiamo detto all'inizio, è l'autogestione del sapere. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire cercare di riappropriarci dell'università e di avere un'università libera, viva e autogestita. Un'università libera dai vincoli esterni di cui parlavamo prima che pratichi una messa in comune del sapere, che quindi produca un sapere non funzionale al tessuto produttivo e industriale del paese, ma che arricchisca la nostra comunità con con altri parametri produttivi, possiamo dire, cioè sì, non mero strumento di progresso economico, industria, ma culturale, diciamo. E dopo la pausa approfondiremo questo discorso, esatto, sotto la forma dell'autoformazione. Adesso diventiamo la RAI. C'è stata un'inversione, questa era Polizia Molto Arrabbiata di Goran Bregovic, la sentiremo dopo. Ora ritorniamo insomma sui nostri temi e ci stavamo chiedendo: ma cos'è questa autoformazione, questo oggetto misterioso? Esatto, ci chiedevamo cos'è l'autoformazione. L'autoformazione è la nostra risposta a tutti i problemi che abbiamo finora esposto. Cosa vuol dire autoformazione? Autoformazione vuol non dire... Non che risolva tutto, No, però. Che risolva tutto, però che possa darci una possibilità migliore a livello di conoscenze. L'autoformazione, possiamo dire, è un'autogestione dei saperi, un'autogestione dei processi di apprendimento. E come sotto abbiamo... che forma? Cioè come si attua concretamente? Si attua attraverso la libertà nei percorsi conoscitivi. Appunto, come dicevamo prima, l'università troppe volte struttura i nostri curriculum in modo rigido, in maniera da indirizzarci verso un... diciamo ci indirizza su una verso strada, schemi precostituiti, esatto, in cui non c'è libertà di movimento vincoli. E infatti diciamo questo processo di autoformazione consiste sostanzialmente molto semplicemente nel fatto che alcuni studenti si auto-organizzano, prendono contatti con dei docenti della loro università o anche da fuori e decidono di prendersi dei crediti dai diversi corsi di laurea e in questi crediti vengono utilizzati sostanzialmente come spazio di libertà dove tu puoi inserire i contenuti che preferisci. Esatto. E questo è molto utile perché i crediti possono essere utilizzati sia come esami, dove tu dunque liberi il tempo che altrimenti è in questi schemi precostituiti che avevamo detto, oppure possono essere in sostituzione degli stage e tirocini. Dunque tutto quello che avrebbe costituito un'espropriazione, un toglimento di una tua retribuzione e un'assunzione di ciò che hai prodotto diventa invece riconquista. Sì, inoltre un'altra diciamo un'altra conquista che porterebbe l'autoformazione importante è la riappropriazione del potere decisionale da parte dello studente nel processo della conoscenza. Cioè nell'università attuale gli studenti sono totalmente deprivati del loro potere, lo possiamo vedere nei consigli, lo possiamo vedere nelle lezioni. Lo studente non conta assolutamente niente a livello decisionale, nonostante anche il processo di Bologna parli di riappropriazione di un ruolo importante dello studente, vediamo che in effetti non è così. L'autoformazione ci permetterebbe invece di riacquisire quel potere che ci manca, in quanto saremmo noi stessi a decidere i nostri percorsi. Esatto. E c'è da dire anche che non sarebbero più percorsi finalizzati a nulla, come invece vorrebbe il presidente di Confindustria, e sarebbero solo finalizzati a noi, alle nostre progettualità, e invitiamo chiunque a autoformarsi, nel senso questa pratica dovrebbe essere il più diffusa possibile, nel senso esistono già molti esempi di ragazzi insieme a precari magari della ricerca che intendono riprendere i loro spazi in questa università che è effettivamente prossima alla catastrofe e utilizzano come mezzo questo dell'autoformazione. Esatto. E invece tu concretamente cosa farai? Nello specifico penso nel mese di maggio stiamo cercando di organizzare un'autoformazione sulla pedagogia libertaria. Ora mi rendo conto che la pedagogia libertaria è un ambito abbastanza sconosciuto anche agli esperti del settore. Dunque, che cos'è? È un modello pedagogico, appunto, che si basa sull'acquisizione della libertà da parte dello studente attraverso autonomia. Autonomia cosa vuol dire? Diciamo farsi le leggi da se stessi in un certo etimologicamente senso. Significa colui che si dà, esatto, la legge da sé. E farsi la legge da sé cosa vuol dire? Vuol dire autogestirsi. Dunque vedere in un'ottica del genere i processi educativi è diciamo una rivoluzione, perché i processi educativi dal punto di vista tradizionale vengono visti come una mera trasmissione di nozionismi passivi e soprattutto è continuamente riproposto un modello coercitivo, quindi un modello che non dà la possibilità di esprimersi liberamente allo studente, ma cerca di incanalarlo in determinate strade da percorrere. Ora viene da sé che la pedagogia libertaria è appunto antigerarchica. Antigerarchica cosa vuol dire? Che nel rapporto educatore-educando ci deve essere orizzontalità. La maggior parte dei pedagogisti, c'è da dire che si scagliano spesso contro questo concetto di orizzontalità, però dovremmo spiegarlo bene, perché qualcuno dice è impossibile che il professore sia messo sullo stesso piano perché ovviamente ha più esperienza, ha studiato di più, ma nessuno mette in dubbio questo. Cioè l'orizzontalità non si basa sul su una differenza di esperienza. Cioè la differenza di esperienza ci sarà sempre, però potrebbe essere fruttuosa in maniera diversa. Cioè, ma soprattutto non è necessario ipostatizzare questa differenza, esatto, di quantità di conoscenze, e dare a ognuno dei due che si trovano in questo rapporto un ruolo che è quello di comandante, esatto, e di comandato. La conoscenza non privilegia il professore in una posizione metafisica, diciamo. E inoltre la pedagogia libertaria vorrebbe eliminare la mercificazione dei rapporti sociali, infatti postulando l'esistenza della pedagogia in ogni angolo della società, quindi non limitandola all'ambiente scolastico o all'ambiente familiare, postula, diciamo, il recupero di una dimensione umana e quindi di una società conviviale che soppianti una società industriale, dunque fondata sul profitto. In ultimo possiamo dire che la libertà, secondo la pedagogia libertaria, non è un fine scatologico, diciamo, è una rivoluzione continua. Infatti la libertà è vista come processo e quindi può essere conquistata giorno per giorno soltanto attraverso la partecipazione attiva. Bene, ora sentiamo la RAF e dopo torneremo parlando di psichiatria e psichiatria democratica e Basaglia. Ah, Allora, ora parleremo dell'altro progetto di autoformazione che stiamo portando avanti, che ormai è quasi concretizzato, e questo altro progetto parlerà di psichiatria democratica e antipsichiatria. Allora, la situazione qual è? Che prima dell'azione di Franco Basaglia in Italia e di altri psichiatri, la questione malattia mentale, dove al cui interno venivano messi un po' tutti i disagi, che potevano andare dalla depressione all'alcolismo alla dissidenza politica, fino a, cioè, per dire, nei manicomi erano reclusi a volte anche gli hippie, perciò tutti quelli che fossero, esatto, tutti quelli che presentassero una minima devianza per la società italiana del tempo erano inchiusi in questi manicomi, che erano luoghi di barbarie assoluta, dove veniva negato il soggetto, dove veniva ritenuto solo come un qualcosa da curare, non era una persona che aveva dei bisogni, era ritenuto una cosa da curare in senso proprio scientifico, inteso come dove la scienza è tecnica, esatto. E poi, per fortuna, l'azione di questo gruppo di psichiatri, il più famoso appunto è Basaglia, e anche la legge del 78 che appunto aboliva i manicomi, che poi in realtà sono stati chiusi solo alla fine degli anni 90, il più famoso appunto è Franco Basaglia, e è da poco, cioè da 2 anni, c'è stato il trentennale di questa legge. Il bilancio è indubbiamente positivo, perché la chiusura dei manicomi ha in sé un valore. Però si sono aperte altre questioni, ovvero tutti quelli che sono usciti da queste condizioni manicomiali dovevano essere adeguatamente, reintegrati, sostenuti, esatto, e questo non è avvenuto, ma certamente la colpa non si può dare a Basaglia. Basaglia ha chiuso i manicomi e già questo è buono. La responsabilità di questa mancata implementazione delle misure che Basaglia comunque aveva previsto ricade interamente sullo Stato e sulle regioni, che non vedendo probabilmente la questione come economicamente favorevole, hanno spesso lasciato fare, e spesso si sono presentati altre forme di istituzionalizzazione. Cosa significa? Che spesso, quando i cosiddetti malati mentali finivano in manicomio a causa appunto del trattamento che ricevevano lì, finivano per avere delle patologie che in pratica contraevano lì nell'istituzione totale, che non avevano precedentemente. Per esempio, stare tutto il giorno chiusi in una stanza, sfido chiunque poi a non istituzionalizzarsi, voglio dire. E questi problemi rischiano di ripresentarsi in queste nuove strutture. E questa autoformazione, appunto, che ha come punto focale la psichiatria e il processo di democraticizzazione della psichiatria, serve appunto a noi studenti per capire queste questioni, per presidiare l'università con dei temi democratici e per interrogarci più in generale sui rapporti tra il sapere e il potere, e tra il sapere, il potere e la tecnica. Ora, quando ci ascolterete giovedì, alcuni nostri amici staranno a Vienna al controvertice europeo in occasione del decennale del processo di Bologna, di cui abbiamo già parlato, sperando che tornino sani e salvi. Speriamo che la polizia non sia troppo arrabbiata, e niente, vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti sul nostro sito ondaperugia.noblogs.org. Ciao da Anna Damolo e Anna Damolo. Ma guarda quelle onde, Johnny, guardale, è un'occasione che non posso perdere, amico, ti prego. Lasciami andare, fammi provare un'onda prima di portarmi via. Un'onda sola. Sono Anna Adamo. Voglio portare tutte queste voci dentro questo palazzo. Sono Anna Adamo. sono single, lavoro, ho già passato le periodi di... Le nostre voci hanno già suonato e urlato in le piazze. Rischio anche di vederli tubare dall'insegnamento e ho finito il concorso per italiano, storia negli istituti tecnici. Le nostre voci dentro questo palazzo. Non voglio presenze da sempre, non ho una ora che lei va. Sono Anna Adada. Voglio portare tutte queste voci dentro questo palazzo. Senza me sono andata le prima ho 49 anni, non voglio sperare sempre che qualcosa non ho. Le nostre voci hanno già suonato e urlato nelle piazze e siamo stufe di non contare il parere. Siamo stufe di subire i giochi della politica.